La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci, buon sabato, buon cinema a tutti. Franco D'Assisti in studio, La Rosa Purpurea, la settimana di Capitan America che è già piombato con i suoi incassi record sui nostri cinema. È solo il capitolo iniziale però di un quartetto di film di cui vi vogliamo parlare in questa ricca settimana, con otto nuove pellicole che arrivano sul grande schermo. E allora, cominciamo subito con Capitan America, cominciamo subito a farci raccontare la storia dalle clip del film. Hai fatto qualcosa di divertente sabato sera? Beh, tutti i ragazzi del mio quartetto vocale sono stati uccisi, perciò... No, non direi. Se invitassi Kristen a uscire, in base alle statistiche, forse accetterebbe. Infatti non glielo chiedo. Troppo timido? Troppo occupato! Indossava un paracadute? No, niente paracadute. Capitan America non indossa paracadute, cade lo stesso ad altezze siderali e si rialza e combatte. Del resto lui è Capitan America, noi no, e quindi, come dire, dobbiamo arrangiarci. Una seconda parte, o un secondo episodio, meglio dire, della nuova saga Marvel di Capitan America, dopo i fatti di New York accaduti in The Avengers. Capitan America riprende quelle fila con Steve Rogers, che ha il volto di Chris Evans, che se la deve vedere con il marcio e il male che sta di dentro, cioè quello che rode chi dovrebbe difenderti. Lo Shield si rivela non essere più quella roccaforte di certezze per la protezione dell'America e dell'umanità tutta, ma invece viene roso da dentro, appunto, da un cattivissimo che ha il volto di Robert Redford. Capitano, per costruire un mondo migliore a volte è necessario distruggere quello vecchio. E questo crea nemici. Gran parte dell'intelligence non crede che lui esista. Chi ci crede lo chiama il soldato d'inverno. È veloce. Forte. Ha un braccio di metallo. È pronto? Basta un solo passo. Morirebbe della gente. Non permetterò che accada. Insomma, la guerra è dichiarata fra il nostro capitano, Capitan America, e il cattivo Robert Redford, alias Alexander Pierce. La longa mano del male è rappresentata dal soldato d'inverno, dal Winter Soldier Sebastian Stan. La battaglia sarà cruenta, gli amici di sempre aiuteranno Capitan America su tutti, su tutte. Scarlett Johansson ancora una volta super bella, ma anche Falcon, Anthony Mackie, che sarà al suo fianco, e Nick Fury, Samuel Jackson, che se la vedrà brutta, ma insomma anche stavolta penso di non spoilerare nessuno, se la caverà ovviamente, se no finirebbe tutto. Allora, Boris Sollazzo con noi, lo saluto, ciao Boris. Questo Capitan America, prodotto medio Marvel potremmo dire, però con un clima generale che evita di metterlo in burletta, e soprattutto con una grande interconnessione con i precedenti capitoli, non solo di Capitan America ma di tutti gli Avengers, e forse anche con qualche cosa gettato verso il futuro. Questo Capitan America secondo me è la dimostrazione che ormai il Marvel Universe al cinema si vede un po' come in edicola o nelle fumetterie, cioè come un insieme che deve portare avanti sia la linea narrativa orizzontale sia quella verticale delle sue saghe. Capitan America è esattamente la dimostrazione di questo. Non è un grandissimo film, non è un capolavoro, non diventerà un cult, ma allo stesso tempo è il tassello di puzzle perfetto che entra all'interno sia della saga di Capitan America sia di quella degli Avengers, mettendo a posto tutta una serie di soluzioni narrative, visive, anche personali, di relazione personale tra i supereroi, che comunque erano necessarie per chi usufruisce del Marvel Universe in toto. Per il resto, appunto, è molto divertente vedere quel Redford così cattivo, non ci siamo abituati, lui lo fa benissimo perché rimane un grandissimo attore, ottimo Chris Evans, indimenticabile in tutti i sensi Scarlett Johansson, con la Marvel al cinema ci si deve divertire. Qui ci si diverte il giusto, quindi secondo me comunque alla fine Capitan America, il soldato d'inverno, è sicuramente promosso. Come riconosciamo i buoni dai cattivi? Se ti sparano addosso sono cattivi! allora, con questa massima, che è abbastanza banale, ma come dire, anche abbastanza condivisibile, da Capitan America noi passiamo alla nostra prima finestra per giocare insieme. Come sempre, due piccoli frammenti di un film di un passato, a volte molto lontano, a volte più recente, che dovrete indovinare per provare a vincere una copia in Blu-ray o in DVD. Questa volta giochiamo con il Blu-ray del film stesso. Allora, andiamo con la prima. Ho dovuto accettare di vendere scarpe a Madison Avenue. Così umiliante. Amiche che erano venute a cena a casa mia venivano ed ero costretta a servirle. Ma tu hai idea di che cosa voglia dire? E allora, avete già indovinato di che film si tratta? Scrivetecelo al nostro indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it, con il vostro nome, cognome e indirizzo, mi raccomando, per poi potervi proclamare vincitori eventuali dei due Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Più tardi però ci sarà un'altra possibilità. Adesso parliamo di Berlinguer. Parliamo di Berlinguer non perché ci siamo trasformati in una trasmissione politica, ma perché è la politica, è il grande profilo di uno dei protagonisti del Novecento italiano che arriva al cinema. Lo fa attraverso un altro uomo politico che ha ricoperto cariche a tutti i livelli importanti nel nostro paese, ovvero Walter Veltroni, le cui, come dire, doti di cinefilo sono note a tutti, e che si mette per la prima volta dal vivo, lui in prima persona, dietro la macchina da presa, per raccontare appunto il profilo di Enrico Berlinguer in questo film documentario molto appassionante, anche commovente, che si intitola appunto Quando c'era Berlinguer. Ascoltiamo subito questa, che è una dichiarazione di Jovanotti, che è uno degli ospiti, diciamo così, chiamati nel film insieme a tanti politici del passato, coevi, diciamo, di Berlinguer, chiamato però a rappresentare Berlinguer con gli occhi di chi aveva la mia, la nostra età, quella di chi oggi ha appunto fra i 45 e i 50, 55 anni, quando noi eravamo ragazzi e Berlinguer era già un importante uomo politico. In Italia la parola comunista è Berlinguer. È una parola che non mi ha mai fatto paura, la parola comunista, a me in Italia, perché l'associo con quella correttezza, l'associo con quella faccia, con quelle parole, con quell'onestà. E quindi continua ad essere nei miei ricordi una parola bella che muore con chi in qualche modo l'ha inventata. Boris, questo è Jovanotti, mi sembra una sulla sua una dichiarazione condivisibile, cioè la parola comunismo non mi ha fatto paura in Italia perché c'era Berlinguer. Qui ovviamente parliamo di cinema, materiale documentale all'interno del documentario di Veltroni ce n'è veramente tantissimo e di altissimo livello. È una bella rilettura di una parabola di un uomo integerrimo, onesto, che forse ha fatto anche degli errori di valutazione che non hanno portato un partito che sfiorava il 34-35% a essere forza di governo. Poi, quando ci stava riuscendo, ci hanno pensato le Brigate Rosse. Insomma, è una bella ricostruzione di tanti anni di storia del nostro paese. Sotto il profilo strettamente filmico, forse con qualche indugio su una poeticità costruita di troppo, ma tutto sommato che mi pare non infici la validità del documentario in generale. Il film è davvero, secondo me, interessante, persino nelle sue ingenuità, persino in quelle pagine dell'unità che in maniera un po' retorica Veltroni mostra con movimenti di macchina anche fin troppo rotondi, fin troppo accennati, però c'è tutto l'entusiasmo anche ingenuo, infantile della politica, e per un uomo, per un'icona che sono stati straordinari. È bellissima la recensione di Berlinguer, tra virgolette, di Jovanotti, perché rende l'idea di quanto quell'uomo potesse essere diventato allo stesso tempo un simbolo di un partito molto caratterizzato, ma anche un bene comune. E infatti la grande intuizione di Veltroni è quella di partire dallo spiegarsi il perché ci fosse stata una donata di massa per i funerali di Berlinguer, perché avesse creato una commozione generale, come forse è successo dopo solo per le grandi star del cinema, non a caso. Devo dire, molto molto riuscito, a me ha emozionato. E allora, questo per quanto concerne Quando c'era Berlinguer, il documentario di Walter Veltroni, che ha animato molto del dibattito anche politico e culturale degli ultimi giorni, anche sui quotidiani, e adesso è al cinema. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, cinema italiano molto presente questa settimana in sala, con il ritorno di un autore sempre molto particolare, molto interessante nella sua cinematografia. Stiamo parlando di Edoardo Whisper, che ancora una volta immerge il suo cinema nella meraviglia del Salento per raccontarci una storia tutta al femminile, tutta nostra, tutta contemporanea, nonostante magari parlare di donne che tornano alla terra possa far pensare a, non so, al cinema del neorealismo. Invece questa è l'Italia di oggi, queste sono le storie di oggi. Allora ascoltiamo una clip di In grazia di Dio, poi ne parliamo con l'autore e con Boris Sollazzo. Mi diceva tua madre che hai qualche problema con l'italiano, proprio con la scrittura. Di tante cose, Kira. Ma dimmi tu. L'alfabeto? Non puoi dire che non lo so. Sto scherzando. Facciamo una cosa, proviamo con un dettato. Proprio. Canottiera. Allora, canottiera, non cannottiera. Con una N. Io mica dico così. Io dico cannottiera, mica canottiera. Pare un orecchione nord. Questa è una delle battute più divertenti anche di questo film, In grazia di Dio. Grandi luci e anche il respiro di un ritorno alla terra, alla prima delle materie della nostra vita, che diventa molto forte, diventa anche molto legame. Edoardo Whisper, il regista, è in collegamento con noi. Ciao Edoardo. Ciao a tutti. Allora, spiegaci un po', raccontaci un po' la voglia di raccontare, l'idea di creare, di realizzare questo film raccontando un ritorno alla terra al femminile. L'idea mi è venuta a casa perché alcuni elementi del film sono nella biografia di mia moglie, che è di famiglia contadina e ha lavorato in una fabbrica di fasonistiche che producevano per le aziende del nord. E tutte queste fabbriche spesso hanno chiuso, eccetto quella di mio cognato, quindi ho visto come le donne in particolare reagivano meglio ai fallimenti e si inventavano altre attività. Ecco, fasonisti, fasonisti, ricordiamoci che sono quelli che lavorano nelle confezioni, nella sartoria, per le grandi fabbriche. Il sud, la Puglia in particolare, sono pieni di queste aziende. Sì, un po' eravamo i cinesi d'Italia, perché la manodopera costava di meno, però molte famiglie hanno investito i guadagni i risparmi della Svizzera, dell'immigrazione in Svizzera, costruendo queste piccole aziende a conduzione familiare. E poi questa famiglia, siccome fallisce, perde tutto, vende la casa, è costretta ad andare in campagna. Non per romanticismo bucolico, semplicemente perché l'unica cosa che rimane loro è lì, si reinventano una nuova vita, una nuova economia e se poi riscoprono anche delle cose importanti della vita. Ecco Edoardo, perché lo sguardo però è esclusivamente femminile? Perché le donne sono più concrete, reagiscono meglio, sono più... Io purtroppo sono più affascinanti, io sono un grande appassionato di uomini del sud perché frequento i bar, però gli uomini spesso rivestono un ruolo che sembra quasi essere a teatro, io faccio questo, io faccio quell'altro, le donne stanno in silenzio e fanno le cose, reagiscono. Per esempio di fronte a un fallimento di una fabbrica, di un'impresa, l'uomo, almeno da noi, ha difficoltà a reagire, perché, ma è comprensibilmente per il ruolo che ricopre ancora nella società. La donna invece è più forte. Boris, promosso il film di Edoardo Whisper, a me è sembrato uno dei suoi più completi e più riusciti. Guarda, più che un inno allo slow food è un attacco alla fast life di questi tempi. Io lo trovo il suo capolavoro, il film più bello che ha fatto. E proprio perché da una parte è un atto d'amore verso la sua terra, verso la donna che ama, e dall'altra è anche un esempio di cinema straordinario. Il film si concentra sulla risposta a una crisi modernissima, quella industriale, a cui si risponde con un ritorno al passato. E in fondo Whisper ha fatto la stessa cosa, in una crisi modernissima come quella del cinema ha risposto andando all'essenziale del cinema, giocando con le luci in una maniera straordinaria. Ci sono delle inquadrature tra virgolette sbagliate che invece sono quelle più giuste di tutto il film, e assolutamente è da promuovere quest'opera, perché secondo me racchiude tutta la poetica di Edoardo, che sa essere allo stesso tempo dolcissima e ruvida, sa essere spirituale e molto materiale, appunto attaccata alla terra. Quindi veramente un'opera poetica che ti porta in un mondo che non conosci, ma che a quel punto vorresti abbracciare sempre, a cui vorresti tornare anche tu. E allora, promosso il film di Edoardo Whisper, in grazia di Dio, grazie Edoardo, grazie per questa partecipazione. Noi adesso andiamo avanti perché dobbiamo giocare ancora insieme. Abbiamo la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Io non ero una vuota consumatrice come le mie cosiddette amiche, anche se non mi dispiace comprare bei vestiti. Mega mance per avere un buon servizio, la gente adora le mance. E allora, figure femminili per figure femminili, questa è davvero importante. Se avete indovinato di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it, provate a scrivere la risposta e il vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una delle due copie del Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Allora Boris, in uscita dalla nostra trasmissione ti faccio sentire questa clip di Storia di una ladra di libri. L'abbiamo finito. Il tuo primo libro. Congratulazioni. Vieni, ho una sorpresa per te. È molto buio qui. Meglio accendere la luce. È un abecedario. Alcune delle parole che abbiamo imparato. Aggiungine quante vuoi. È tuo. Grazie, papà. Un best seller che diventa un film, un libro che racconta la passione per i libri immersa nel nazismo negli anni più bui della storia della Germania a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. È un film però che, a mio modo di vedere, Boris, riesce solo a metà. Ottima impostazione in termini di fotografia, di costruzione delle scene, ma non si riescono a capire alcune scelte, per esempio quella di far vedere tutto in inglese, le parole dei libri, le scritte sui muri, tranne però invece i titoli dei libri stessi in copertina, che sono in tedesco. Ci sono queste cose per il mercato internazionale che francamente non si vorrebbero più vedere nel 2014, e poi alcune scivolate retoriche francamente dalle quali rialzarsi è un po' difficile. D'accordissimo con te, è un po' come quell'abecedario che si sente nella clip. Sembrano esserci tutte le lettere al posto giusto, sembrano esserci tutte le intuizioni al posto giusto, anche questo racconto in cui la parola può essere l'unico elemento di vittoria in un paese sconfitto e in una vita di sconfitti, in cui la cultura può essere una risposta alla barbarie, però è veramente e costantemente un inno alle intenzioni che poi però non si rivelano giuste intuizioni. La retorica fa man bassa, quello che c'era di favolistico, di potente nel libro qui non lo ritroviamo quasi mai, se non forse in alcuni sguardi, in alcuni momenti dedicati, guarda un po' anche in questo caso alle donne. Però nel complesso Storia di una ladra di libri non riesce ad uscire da una certa retorica che ci costringe a un film molto didascalico, quasi didattico, e che alla fine risulta purtroppo particolarmente noioso. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, spazio al cinema da vedere in casa con la soluzione del DVD della scorsa settimana. Ha un fiammifero? Sì, signora Bronson. C'è tanta gente, eppure si è tanto soli. Non è così? Come fa a saperlo? Lei fuma troppo, l'ho notato. Solo le persone infelici fumano troppo. E allora si trattava di Gilda, capolavoro con Rita Hayworth, con Marco Lavinaro di Cucciago, Como, e Gianmaria Bottacin di Treviso, che hanno per primi indovinato e vinto l'edizione in Blu-ray di questo grande capolavoro, della quale parliamo con gli amici di Film TV. E già in collegamento con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Gilda, uno dei noir più celebri della storia del cinema, il film che consacrò Hayward alla leggenda, esce in Blu-ray. L'edizione è quella restaurata, meravigliosamente, tenendo conto che il film è del 1946. Ottimo video, che non risente del tempo, ottimo audio originale. Tra gli extra, Scorsese e Baz Luhrmann discorrono del mito di Gilda, ma purtroppo non ci sono i sottotitoli italiani. Ecco, questa è forse l'unica pecca di un'ottima edizione. E allora, questo per quanto concerne il game della scorsa settimana, l'uscita in Blu-ray di Gilda. Una sbirciatina ai palinsesti della prossima settimana in televisione ci ha fatto notare subito, il mio occhio è caduto immediatamente su un film che io considero un capolavoro di un regista che amo molto come Louis Malle. Stiamo parlando di Vania sulla 42esima strada. Sì, so che se nella rosa delle segnalazioni, per quanto ampia, c'è un film di Louis Malle, Franco sceglierà sempre un film. Ecco, hai indovinato. Quindi Vania sulla 42esima strada, ultimo film del maestro francese, in onda mercoledì 2 su Rai 5 alle 15.35. C'è un Vania di Anton Chekhov, la raffinatissima sceneggiatura di David Mamet e la regia di Louis Malle, che rispetta la dimensione teatrale facendoci vedere il teatro al lavoro, seguendo le prove dello spettacolo, e che però, già che insieme, esalta il cinema con i primi piani, i particolari, i dettagli. Da notare che nello stesso giorno, a mezzanotte 35, su Rai Movie c'è un altro film di Louis Malle, che è Les Amants. Ecco, tra l'altro, la sceneggiatura è di un altro dei miei sceneggiatori barra registi preferiti, ovvero David Mamet, quindi qui siamo veramente al top. Allora, Vania sulla 42esima strada, non perdetelo, su Rai 5, mercoledì alle 15.35, orario da studenti o da gente che può videoregistrare. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, come ci dicono le note della nostra sigla. Io ringrazio Carmelo Lavoicello e Lorenzo Nespoli che ci hanno assistito per questa puntata. Vi do appuntamento a sabato prossimo alle 16. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e restate con noi tutta la settimana. A risentirci.